24 mattino. Allora, sono le 8:17 minuti, eccoci qua con 24 mattino, è il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, ben ritrovata. Ciao Deborah. Alessandro, grazie e buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di telefonini, nel senso di tariffe, sì. Perché dal 1 luglio ci sono delle novità. Esatto, sei pronto per andare in vacanza? Hai intenzione di andare all'estero, in qualche bel paese europeo? E di telefonarmi molto quando sarai là? Soprattutto l'ultima, però sì, visto che andrò all'estero, insomma... È una cosa che ti interessa. Sono interessato. E allora, se hai scelto qualche capitale europea, devi sapere che dal 1 luglio entrano in vigore le cosiddette eurotariffe, quindi ci sono buone notizie in arrivo per i consumatori. Sono le nuove regole che permettono di ridurre le tariffe roaming all'interno dell'Unione. Il roaming che cos'è? Credo che lo sappiano quasi tutti, praticamente quando andiamo all'estero il nostro operatore delle telecomunicazioni, il nostro operatore si aggancia ovviamente ad un operatore locale. I risparmi di cui parliamo questa mattina saranno in realtà progressivi perché i tagli tariffari partiranno da mercoledì prossimo, avranno però nel tempo, negli anni, una certa gradualità. E allora, come dicevamo, visto che le vacanze stanno per cominciare un po' per tutti, direi che possiamo parlare di partenza delle eurotariffe con perfetto tempismo. Marco Bulfondi, Altro Consumo, buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, diciamo che parliamo di queste novità perché nel processo di integrazione europea, che è un cantiere sempre aperto, bisogna mettere insieme la, come dire, legislazione di 27 paesi, si sta continuando questo processo di omogeneizzazione e ovviamente sta andando avanti anche tutta la regolamentazione che riguarda il settore delle tariffe di telecomunicazioni. È un importante cambiamento questo dal 1 luglio, diciamo che non appena come dire, ci si sposta, Bulfon, io ammettendo che domani volessi andare a Parigi piuttosto che ad Helsinki o in un altro paese appunto europeo, so intanto l'operatore a cui mi aggancio, poi vedremo le novità in termini di tariffe. Sì, beh, questo è un servizio che è già attivo in questo momento, cioè nel momento in cui si reca all'estero, evidentemente il nostro operatore non è più disponibile perché non è più in grado di comunicare con la nostra SIM, per cui ci sono degli accordi tra gli operatori dei vari paesi e la nostra SIM viene agganciata da un operatore locale. Se per esempio andiamo in Francia, ci sarà uno degli operatori francesi che intercetterà la nostra SIM e si preoccuperà di metterci in contatto con il nostro operatore. E quindi ci verranno applicate delle tariffe particolari, o almeno fino ad oggi venivano applicate delle tariffe che derivavano sostanzialmente dagli accordi che il nostro operatore italiano faceva con gli operatori dei singoli paesi stranieri. Adesso invece ci sarà una cornice all'interno della quale gli operatori potranno muoversi proprio in termini di spesa che dovrà essere sostenuta, e quindi non varrà più un singolo accordo fra operatori ma varrà, come dire, la disciplina europea, Bulfon? Sì, in questo senso che soprattutto il commissario alla concorrenza dell'Unione Europea si è molto dato da fare in questo senso e ha imposto dei limiti massimi alle tariffe di roaming. Sottolineo la questione delle tariffe di roaming perché non vorrei che qualche ascoltatore facesse confusione con le tariffe internazionali. Le tariffe di roaming, come lei diceva giustamente, sono quelle che si applicano quando noi siamo all'estero e chiamiamo un altro paese, tipicamente il nostro paese. Certo. Diverso è il caso delle tariffe internazionali, cioè quando noi siamo in Italia e chiamiamo un paese straniero, per esempio se siamo in Italia e chiamiamo in Francia, da questo punto di vista le decisioni europee non hanno alcuna incidenza sulle tariffe che ci vengono applicate. Quali erano, come dire, le tariffe massime che venivano pagate fino a questo momento, Bulfon, e quanto potremo risparmiare? Ci può fare qualche esempio? Dunque, allora, le tariffe che vengono applicate in questo momento per quanto riguarda il roaming sono prevalentemente intorno ai 55 centesimi. Sì, e invece potremmo arrivare... Le tariffe... Sì. Le tariffe non potranno... È roaming. È roaming, esatto, sembra che stiamo parlando... Ho parlato di tariffe internazionali? No, siccome la stavo un pochino perdendo come collegamento telefonico, allora si è introdotto Alessandro, diceva giustamente, sembra che stiamo parlando da un paese all'altro, era solamente Scusate. Così. Sì, sono su un mobile, se mi devo spostare di te. No, adesso la sentiamo bene. Allora, adesso la tariffa massima che viene pagata è di 55 centesimi. È di 55 centesimi. Quando si effettuano delle chiamate, e a partire dal 1 luglio la tariffa massima applicabile sarà di 51,6 centesimi, quindi sostanzialmente 51 centesimi. Peraltro quando si è all'estero, quindi si applica il roaming, si paga anche sulle chiamate ricevute. E oggi le tariffe prevalentemente vigenti oscillano intorno ai 26 centesimi al minuto e invece a partire dal 1 luglio queste tariffe non potranno superare i 22,8 centesimi. Qui stiamo ancora parlando, così, esatto, no, perché siccome prima avevo parlato di una gradualità, poi queste tariffe andranno costantemente a scendere a partire anche dal 2010 e sì, dal 2011. Si arriverà fino al 2011 quando costeranno 42 centesimi per chiamare e 13,2 centesimi per ricevere chiamate. Volevo fare questa precisazione. Sì. Oggi tutte le tariffe sono a scatti. Sì. Questo significa che paghiamo ogni 30 secondi, ogni 60 secondi. Tutte le tariffe europee sono tariffe che dovranno essere assolutamente al secondo, a parte i primi 30 secondi per quanto riguarda le chiamate che si effettuano. Questo è molto importante per quanto riguarda soprattutto il controllo poi che si vorrà fare delle chiamate, perché su questo punto nessuno degli operatori, almeno per quanto mi consta, sta informando su questo aspetto. Ah, ecco, questa è un'altra bella battaglia allora che credo impegnerà già prossimamente le associazioni dei consumatori, Bulfon. Adesso volevo fare qualche esempio anche per quello che riguarda il cambiamento delle tariffe per l'invio di SMS o magari per l'utilizzo di internet se si va all'estero, perché con il nostro telefono possiamo fare anche questo. Però prima di questo volevo dare qualche suggerimento ai nostri ascoltatori, Bulfon. Come possiamo controllare che tutto questo dalle compagnie sarà rispettato a partire dal 1 luglio, cioè che le compagnie di telecomunicazioni rispettino la normativa europea e che le tariffe siano adeguate alla nuova disciplina? Dunque, anzitutto il consiglio principale è quello di controllare il proprio conto telefonico, quindi di stare molto attenti al tipo di traffico che si fa, le telefonate che si fanno, la loro durata e poi verificare sul proprio conto telefonico che il credito che viene decurtato sia decurtato correttamente. Soprattutto io consiglio a che in condizione di farlo, tenendo conto del fatto che in prevalenza in Italia si utilizzano tariffe ricaricabili, sì, tariffe ricaricabili, di registrarsi sul sito del proprio operatore e utilizzare quei servizi che consentono di verificare come l'operatore tariffa. Tutti gli operatori hanno servizi di questo genere, per cui si può verificare direttamente online quanto l'operatore ha tariffato ciascuna singola chiamata. Benissimo. Io lo consiglio vivamente perché questo è il modo migliore per controllare che l'operatore si comporti correttamente. Allora, dicevo prima appunto che così vorrei fare un po' il quadro anche per i nostri ascoltatori delle tariffe che cambieranno anche per quello che riguarda l'invio e la ricezione di SMS. Perché? Perché sono soprattutto i giovani che vanno all'estero e magari oltre alla telefonata alla mamma, magari così raccontano agli amici attraverso l'utilizzo di messaggi come sta andando questo, così, questa permanenza all'estero. Dal 1 luglio non potranno costare più di quanto, Bulfon? Più di 13,2 centesimi, quindi sostanzialmente più di 13 centesimi. E questa è la tariffa che rimarrà dal 1 luglio in avanti. Questo non subirà cambiamenti. Questo quindi non è, meno di così non potrà costare, nel senso che non subirà la stessa graduale discesa dei prezzi invece delle tariffe proprio per le chiamate. Sì, osservo che queste comunque sono tariffe massime. Mm-hmm. Hanno tutta la possibilità di applicare, certo, tariffe più basse. Il punto critico qui è che proprio la tariffa sugli SMS dimostra la paradossalità della situazione che questo intervento provoca. Perché? Perché in questo momento, per esempio, allora, inviare SMS in roaming oggi costa tra i 25 e i 30 centesimi, in alcuni casi addirittura 50 centesimi. Mandarli con tariffe internazionali costa intorno ai 30 centesimi in grandissima prevalenza. Mandarli in Italia con tariffe nazionali, cioè dall'Italia all'Italia, sì, costa 15 centesimi. Invece le tariffe di roaming applicate dall'Unione Europea costeranno di meno, 13 centesimi. E questo potrebbe, come dire, determinare il paradosso che mandare un messaggio all'interno del proprio paese ovviamente potrebbe costare di più rispetto a quanto non possa accadere andando all'estero e inviarlo in Italia. Esatto, soprattutto questo, cioè quando si è nel nostro paese paghiamo di più inviare SMS che non a essere all'estero, cioè se andiamo in Francia, in Inghilterra, in Germania paghiamo un SMS di meno che non a spedire lo stesso SMS dall'Italia. È un tema del quale tra l'altro avevamo già parlato proprio agli inizi di maggio, quando l'Antitrust e l'Autorità Garante delle Comunicazioni avevano svolto questa indagine in materia di SMS, ed era emerso che il 75% degli italiani manda gli SMS in condizioni di favore perché aderisce ad offerte speciali, e invece il restante 25% si fa spellare perché paga ancora il messaggino pieno, proprio i 15 centesimi che Buffon citava. Buffon, però il tempo a nostra disposizione è scaduto, devo salutarla, buona giornata. Altrettanto a voi, grazie. Occhio dunque al 1 luglio con il cambiamento delle tariffe. Tutti pronti? Tutti pronti. Salva Danaio. Salva Danaio alle 12, parliamo del BRIC, i paesi in grande sviluppo di qualche anno fa, Brasile, Russia, India, Cina, a che punto stanno adesso e soprattutto, insomma, gli italiani che vogliono investire in queste aree cosa devono fare? Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora uno sguardo alle notizie in primo piano, con le elezioni e i ballottaggi per le amministrative. Il centrodestra strappa 8 province al centro-sinistra, tra queste Milano, Venezia, Savona e Lecce. Il PD invece tiene la provincia di Torino e i comuni conquista Bologna, Firenze e Bari. Fallisce invece il referendum con record di astensione, ha votato il 23,3% degli italiani. Una forte scossa di terremoto ha colpito ieri sera l'Abruzzo. Il sisma di magnitudo 4.5 sulla scala Richter è stato registrato alle 22.58, epicentro nell'Aquilano, è stato avvertito anche a Roma. Altre due scosse successivamente, tanta paura, ma fortunatamente nessun danno rilevante. E nella notte a Washington un grave incidente alla metropolitana, due convogli si sono scontrati, ci sono almeno 6 morti e 80 feriti. Infine un debole segnale inviato dalle scatole nere dell'Airbus Air France, precipitato il 1 giugno al largo del Brasile, è stato captato dai battelli della Marina francese, questo almeno scrivono i giornali di oggi, Le Monde e Le Figaro. Tutto questo alle 8:33 minuti. Allora ci concentriamo ovviamente sulle elezioni, i ballottaggi delle amministrative e il referendum. Anzi, vorrei partire proprio da qui, il referendum. Saluto il professor Giovanni Guzzetta. Buongiorno professore. Buongiorno. Ci siamo buongiorno, sentiti in tempi migliori forse per lei, insomma. Professor Guzzetta è il presidente del comitato promotore del referendum elettorale. Tra l'altro con lei c'è anche l'onorevole Giuseppe Calderisi, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Il Popolo della Libertà, firmatario della Prima Ora, uno che il referendum li ha sostenuti. Professor Guzzetta, cos'è lei, un grande sconfitto, non ce l'ha fatta? Ha visto che affluenza disastrosa al 23%? Ma guardi, ovviamente la sconfitta c'è e nessuno la nega, quindi siamo stati sconfitti. Probabilmente abbiamo sperato che questa rassegnazione di tanti italiani verso la politica e verso tutto ciò che ha a che fare con la politica si potesse trasformare in una indignazione attiva nel referendum, e ciò non è accaduto. Detto questo, diciamo, l'impresa era un'impresa impossibile, sappiamo tutti che sono impossibile, insomma, era molto difficile, non impossibile perché sennò non l'avremmo fatta, ma insomma è molto difficile. Sappiamo che sono 15 anni che non si raggiunge il quorum e che questo istituto è stato, come dire, ucciso da una pratica di, come dire, di distorsione dovuta al fatto che esiste una propaganda per l'astensione molto forte. E quindi questo è un problema che prescinde dal nostro referendum. Per quanto riguarda noi, noi siamo ovviamente molto dispiaciuti per l'esito, devo dire però che il dato della nostra sconfitta non può far gioire nessuno, perché non c'è stata nessuna manifestazione di tipo alternativo positiva. Cioè, noi abbiamo proposto un referendum, su questo referendum sappiamo che si sono pronunciati a favore tra gli 8 e i 9 milioni e mezzo di italiani. Viceversa, le altre posizioni sappiamo che si sono espressi per il no circa 2 milioni, e poi sappiamo che c'è un'enorme quantità di astensione che non è però leggibile in positivo. Cioè, sappiamo che ci sono il 70% degli italiani, 80% degli italiani che non sono andati a votare, quindi che hanno manifestato, come dire, disinteresse per la questione, ma non sappiamo che questi 80 milioni, nessuno può dire che questi 80 milioni si hanno manifestato, sì, disinteresse perché erano contrari al merito del suo sito. Beh, lei sa perché però l'astensione, proprio si punta, ormai c'è il partito dell'astensione sui referendum, no? Si punta a non far raggiungere il quorum. A questo proposito le chiedo, meglio aumentare, indovini chi l'ha detto, meglio aumentare le firme necessarie per presentare il referendum e magari ridurre il quorum? Ma io sono d'accordo. Cioè, sì, come è d'accordo? Ma sai chi l'ha detto? Il suo amico, il ministro Maroni, il suo... Ma guardi, non, io non ho pregiudizi sul ministro Maroni, lo contesto quando fa delle cose che secondo me sono criticabili. Io penso che il problema del quorum sia un problema grave, al di là del nostro referendum, ed è grave per questo motivo, perché nel momento in cui si trasforma l'astensione o si cerca di trasformare l'astensione in un no, si pone un problema anche costituzionale molto serio, che è quello della segretezza del voto. Cioè, se l'astensione significa o si vuol far significare all'astensione un no e quindi un'espressione positiva di voto, allora bisogna tutelare la segretezza. Mentre noi così sappiamo che coloro che si astengono possono essere immediatamente identificati perché appunto non ritirano la scheda, non vanno a votare. Quindi il quorum distorce il meccanismo e anche la logica della democrazia, che pretende di tutelare la segretezza tutte le manifestazioni politiche. Sì. Io, tra l'altro, onorevole Calderisi, lei insomma ha sostenuto questo referendum, firmatario della prima ora, lei poi insomma il passato è stato radicale, ha vissuto anche, come dire, la stagione quella positiva dei referendum, che poi dal 95 sostanzialmente non raggiungono più il quorum. Allora, la politica dovrebbe trarne una conseguenza, e quale da questo fatto, che è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti? Ma per quanto riguarda l'esito di ieri, diciamo, c'è una causa più contingente e una causa strutturale. Voglio ricordare anche quella contingente: il referendum fu promosso 2 anni fa, quando c'erano 25 partiti, poi abbiamo avuto una drastica riduzione della frammentazione con le scelte del PD, della nascita del PDL e il voto degli elettori l'anno scorso, e quindi diciamo molti elettori hanno avuto la sensazione che il referendum fosse diventato inutile, mentre invece conservava una validità per rendere, diciamo, permanente questa riduzione della frammentazione. Ma a parte questo, come diceva lei, c'è una causa strutturale di fondo, che è dovuta al fatto che c'è il quorum. Ormai da almeno 10 anni il referendum non esiste di fatto più, da quando nel 99 un altro referendum in materia elettorale per abolire la quota proporzionale non fece il quorum per un soffio. In realtà l'aveva fatto, perché se non fossero stati conteggiati morti e fantasmi presenti nelle liste elettorali, il referendum quella volta avrebbe raggiunto il quorum, e forse questi ultimi 10 anni avremmo assistito ad una situazione almeno uno, lei dice, uno sarebbe passato, sì, quello sulla sarebbe quota passato, proporzionale. Ma forse è cambiata la vicenda, perché diciamo l'invito all'astensione forse non sarebbe stato ripetuto. Ma ormai con il quorum, dicevo, non c'è, credo, tema di sorta, neanche se rifacessimo il referendum sul divorzio, sull'aborto, sul finanziamento pubblico. Dice, non c'è materia che possa fare il quorum. Dice, addirittura neanche materie come quelle sul divorzio. Non esiste più, no. Il referendum così è morto. Perché si ricorre al trucco: chi si oppone al quesito preferisce aggiungere un 10% al 40% almeno di astensionismo fisiologico, sì, certo. E il gioco è fatto. Non c'è competizione leale fra i sostenitori delle due tesi, come avviene in tutti i paesi del mondo dove non esiste il quorum e dove c'è una competizione fra il sì e il no. Il sistema politico, il sistema mediatico coinvolge gli elettori con un'informazione piena, compiuta, e c'è un confronto leale fra il sì e il no, e poi io non so chi avrebbe vinto in questa competizione nei vari referendum che sono passati negli anni scorsi. Ma lei il quorum sulla legge elettorale, lei lo abbasserebbe o lo toglierebbe proprio? No, per me il quorum va eliminato, non esiste nessun paese al mondo, è un'aberrazione che chi non vota conta di più di chi vota, è un problema di democrazia politica. In un sistema di democrazia politica non è ammissibile, piuttosto rendiamo il referendum più difficile, più eccezionale, aumentiamo il numero delle firme, vediamo altri correttivi per rendere il referendum uno strumento da promuovere in occasioni... Si dice più difficile presentarlo, però voglio dire, una volta che è presentato... Che sia, quando si fa, sia una competizione reale fra il sì e il no. No, certo. Professor Guzzetta, oggi Mannheimer, il sociologo Renato Mannheimer, sul Corriere, quello che già aveva certificato che uno su due degli italiani manco sapevano che si andava a votare per che cosa, come referendum, fa un altro sondaggio molto interessante. Quando pensa alla politica, ha chiesto, quale tra le seguenti espressioni le viene in mente per prima? Il 24% degli italiani dice disgusto, il 22% rabbia, insomma sommandoli fanno il 46% e rotti, anzi con i decimali arriviamo al 47%, un italiano su due prova disgusto e rabbia. Voi avevate preparato e presentato questo referendum proprio come il colpo che si poteva dare alla casta, e allora c'è qualcosa che non va, o non vi hanno capito, o hanno capito male, o non vi hanno creduto. Ma guardi, c'è questo sondaggio dimostra quello che dicevo prima, cioè oramai il livello di disgusto e rassegnazione degli italiani va oltre la capacità stessa di indignarsi, quindi travolge qualsiasi strumento che proponga un cambiamento, e non si crede più nel cambiamento. Questo è il dato drammatico su cui tutti debbono riflettere, e noi ovviamente per primi. Se noi scommettevamo sul fatto che questa insoddisfazione per la politica potesse essere superata dalla proposta di un cambiamento. Se gli italiani per cambiare devono andare a votare, la percepiscono come un'altra azione politica, mi sembra. Esatto. E purtroppo gli italiani sono convinti ormai che non si possa, buona parte, perché ricordo ci sono sempre 11 milioni che sono andati, quindi voglio dire è un fenomeno molto ampio, ma che non riguarda tutti gli italiani. Però devo dire, la maggior parte degli italiani è convinta che il cambiamento non sia possibile, e questa è una cosa che, appunto, ripeto, deve far riflettere noi certamente, ma deve far riflettere tutti, perché questo trend di astensioni crescenti è un trend che riguarda tutte le elezioni, e poi si manifesta in modo palese nel referendum, anche perché molti italiani, lo dico perché ho fatto la campagna e ho parlato con tante persone, credono che lo stesso referendum sia ormai inutile, perché poi viene, come dire, sterilizzato dalla reazione parlamentare. Quindi molti mi dicevano: ma perché devo andare a votare se poi tanto la legge la cambieranno nuovamente in Parlamento? Ora, questo è un fatto grave per la democrazia, perché una democrazia in cui la maggior parte degli cittadini non crede più nella politica è una democrazia malata. Allora, io vi ringrazio, insomma, su questo referendum poi ci saranno analisi politiche a dire perché è fallito così miseramente, ce ne saranno. Ringrazio sia il professor Giovanni Guzzetta e l'onorevole Giuseppe Calderisi del Popolo della Libertà. Devo andare a dare le informazioni sul traffico, prima però gli chiedo solo un attimo di pazienza, ma insomma credo che abbia finito di festeggiare da poco. Il neo sindaco di Firenze Matteo Renzi è con noi, mio sindaco. Buongiorno. Sento ancora rumori di sottofondo, forse già in piazza a raccogliere ancora il trionfo della sua Firenze, insomma di chi l'ha votata. Eccoci qua, allora, alle 8:45 minuti con il sindaco di Firenze Matteo Renzi del Partito Democratico. Sindaco, eccoci qui. Allora, è già per le piazze di Firenze, insomma, sento. Sì, siamo a fare colazione con degli amici. Mi fa un po' effetto farmi chiamare sindaco, e quindi. E come la devo chiamare? No, gli amici la chiameranno Matteo, noi la chiamiamo sindaco, insomma. Bello, felice e orgoglioso. E fa effetto. Qualcuno ha scritto, infatti, anche oggi sul Corriere della Sera: sì, era promettente, è promettente Renzi, ma chi avrebbe scommesso su di lui con due candidati benedetti dal PD, uno d'Alemiano, uno veltroniano, invece ha vinto le primarie, non ha vinto al primo turno, ma ha vinto al ballottaggio. Lei avrebbe scommesso qualcosa? No, beh, diciamo... Per quando ci siamo messi in gioco era naturale crederci, altrimenti non avrebbe avuto senso. E tuttavia credo che oggi per noi, per tutti noi, per il gruppo di persone che ha accompagnato questa scommessa, sia una giornata carica di gioia, ma anche carica di molta responsabilità, perché il sindaco di Firenze, insomma, la gioia è finita ieri sera, da oggi c'è bisogno di mettersi al lavoro e iniziare concretamente a fare le cose di cui questa città ha bisogno, e possibilmente anche far tornare a sognare e a sperare i fiorentini, che sono notoriamente una parte come dire, criticona del nostro paese, ma che sono anche una realtà bellissima. Quindi tenere insieme le due cose, il sogno, la speranza, e poi però la concretezza, perché altrimenti un sindaco non serve a niente. E a proposito di concretezza, allora ho già letto che vorrà fare una giunta, credo, di metà e metà, 5 donne e 5 uomini, conferma? Sì, io avevo già una giunta 50-50 all'interno della provincia. La novità principale è che abbiamo detto che avremmo ridotto il numero degli assessori, l'abbiamo detto durante la campagna delle primarie e lo faremo, e che porteremo con uno slogan, ma poi è un significato politico, le facce nuove in Palazzo Vecchio, cioè un ricambio profondo all'interno della squadra di governo, perché credo che quando termina un'esperienza amministrativa il ricambio non va soltanto teorizzato negli articoli di giornale, ma poi bisogna avere il coraggio di farlo, quindi noi ci proveremo. La prima cosa che farà, so che ha fatto anche 100 promesse in 100 giorni, ma ci dica le prime tre, insomma, le prime tre cose che deve fare il sindaco di Firenze, secondo lei, quindi lei. Dal punto di vista simbolico, oggi vado a pranzo alla mensa del Nuovo Pignone General Electric, la principale azienda di Firenze, la mensa con gli operai, ma anche con il management, perché credo che Firenze non sia solo un museo a cielo aperto, Firenze è una realtà ricca di realtà imprenditoriali, e da questo punto di vista il primo è sicuramente un simbolo. Ma vedo due cose oltre a questo primo simbolo per arrivare alle tre che lei mi ha chiesto. La prima è un'attenzione straordinaria alle piccole cose. Sembra banale, ma le buche, il decoro, la qualità dello stile fiorentino. Negli ultimi anni si è un po' perso. Firenze è una città troppo sudicia, una città che ha delle piccole cose quotidiane a cui mettere mano da subito, immediatamente. Dall'altro però tornare a fare di Firenze una città contemporanea, cioè bellissima l'idea della perla del Rinascimento, però noi vogliamo che Firenze sia una città delle opportunità, e allora su questo alcuni eventi di natura non soltanto artistica e culturale, ma penso a ciò che può fare oggi l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, per fare di questa Firenze una città sicuramente innamorata del passato, però vorrei dire gelosa del proprio domani. Sindaco, nel lasciarla alla sua colazione ho visto che l'hanno chiamata tutti, insomma, Franceschini che lei aveva definito il vice disastro, insomma, Veltroni l'ha chiamata, l'hanno chiamata tutti. Veltroni no. Ah, e qua, grazie Walter, grazie chi era? No, sul Corriere dicono, telefono, grazie Walter, non era Veltroni, no. Ma veramente Walter Rossetti, coordinatore del PD di Ponte di Mezzo? Ho capito. Allora avvisi il Corriere, perché al Corriere dicono telefono, grazie Walter, grazie, l'ex segretario. Assolutamente. Il Corriere, tra l'altro, la battuta che facevano ieri, visto che il rivale era Giovanni Galli, grazie Walter, qualcuno ha domandato se era Zenga. Ma garantisco che non era né Zenga né Veltroni, era il meraviglioso Walter Rossetti, che non noto agli onori della cronaca nazionale, ma una delle colonne del PD di Firenze del quartiere 5. Insomma, Veltroni non l'ha chiamata, è l'unico del PD che non l'ha chiamata. Noi abbiamo fatto un po' di battaglie. Io non sono uno di quelli che si tira indietro rispetto a una battaglia. Abbiamo fatto un po' di battaglie, abbiamo anche detto delle cosine non particolarmente esaltanti. Senta, ma come sto diventando diplomatico rispetto alla leadership nazionale. Sta diventando sindaco. Però detto questo, credo che il risultato di Firenze sia un risultato importante anche per il nostro partito, perché mantenere questa città in un contesto anche molto difficile, lei pensi a quello che è accaduto a un tiro di schioppo da qui, che è Prato, dove il PD ha perso dopo tanti anni la guida del comune, è il segno che probabilmente questa città può tornare ad essere anche una capitale del centro-sinistra del PD. Noi ci proviamo. È vero, la ringrazio, sindaco, l'ho già chiamata sindaco 5 volte, insomma, non vorrei farle mandare di traverso la colazione, ma comunque, sindaco di Firenze, questo è Matteo Renzi del Partito Democratico, grazie. Sì, lei faceva cenno a Prato, dopo 63 anni, Prato va a destra, ha vinto l'imprenditore Cenni, e sostanzialmente il candidato del Popolo della Libertà, Lega e UDC. Allora, si può fare qualche considerazione in questi minuti? Voglio salutare il professor Piero Ignazzi. Professore, buongiorno. Ha sentito, insomma, anche la soddisfazione del sindaco di Firenze, Renzi, ovviamente. Professor Ignazzi, ordinario di scienza politica a Bologna. Non so, vorrei partire magari dalla sua Bologna, se si può dire, e dal centro. Ecco, qualcuno ha detto, già facendo una prima analisi dei risultati, il Partito Democratico ha tenuto nelle città come Firenze, come Bologna, al centro, al nord invece, soprattutto in Lombardia, pare che ci sia una scomparsa, penso a Cremona, a Bergamo, ecco l'elenco adesso non ce l'ho, ma ce ne sono tante, a Lodi, ha perso un po' ovunque, insomma, un Partito Democratico che conferma di avere un problema al nord? Direi che ci sono ormai delle zone definite di insediamento da parte, da un lato del centrodestra nel nord e da un lato si è confermato l'insediamento del centrosinistra nel centro Italia, e rimane come sempre il sud il territorio di competizione. Questo non è assolutamente nuovo, è quello che succede già da 15 anni a questa parte con il nuovo sistema partitico, ma era esattamente anche quello che succede da un tempo. Poi ci sono i cicli elettorali per quanto riguarda le esperienze amministrative. Nel 2004 c'è stato un ciclo elettorale particolarmente favorevole alla centrosinistra, che infatti aveva schienato il centrodestra facendo quei risultati incredibili come il 59 in termini di province. Quindi era chiaramente frutto di un momento particolare, perché questo non rifletteva e non ha mai riflesso i rapporti di forza tra i due schieramenti, e quindi era inevitabile che si sarebbe dovuto arrivare a un maggiore equilibrio anche nella conquista delle amministrazioni locali, cosa che c'è stato senza invertire il rapporto. Non è che il centrodestra abbia conquistato 50 e sono rimaste 8 le province al centrosinistra. Anzi, quello che sono secondo me due cose da sottolineare. Da un lato l'esito di questi ballottaggi, e nei comuni i ballottaggi sono stati 11 a 5 per il centrosinistra, sì. 11 li ha vinti il centrosinistra, 5 li ha vinti il centrodestra. Nelle province 14 li ha vinti il centrosinistra e 8 il centrodestra. Quindi in 15 giorni si è realizzato un po' un'inversione di tendenza rispetto al risultato molto favorevole al centrodestra che era stato nel primo turno. Quindi questo serve per un po' definire un po' meglio il quadro che ci aveva dato il risultato europeo come una sorta di rotta del PD. Le cose sono diverse e non sappiamo se questo riflette tutta una serie di questioni di carattere locale o riflette invece un affanno, una difficoltà che incomincia ad affiorare all'interno del centrodestra, soprattutto nell'immagine del suo leader. La seconda considerazione, se mi permette, sì, è quella che in effetti però l'elettorato si sta muovendo, cioè prima dicevo che ci sono delle zone storiche di insediamento dei due vari schieramenti di centrodestra e di centrosinistra, però all'interno di queste zone ci sono dei cambiamenti, e i cambiamenti non sono in realtà favorevoli al centrosinistra, perché nelle sue roccaforti storiche incominciano a vedersi delle crepe. Abbiamo visto prima Piacenza, ma lo vediamo anche in altri comuni all'interno del centro, della zona del centro Italia. Beh, a Prato per l'appunto, insomma. Prato è uno, Sassuolo è un'altra. Sassuolo è un altro comune. Altri piccoli comuni che non fanno molto notizia sui giornali, però insomma che nelle varie cronache locali invece emergono, che sono passati o attraverso liste civiche o attraverso passaggi di fronte da vecchi leader del centrosinistra, sono passati a destra o hanno animato liste civiche, mostrano che c'è una difficoltà anche nelle zone di insediamento storico della sinistra a mantenere il proprio territorio. Professore, un'ultima considerazione: il 61% ha votato nei ballottaggi ai comunali, il 46% alle provinciali, insomma si conferma una stensione già che c'era al primo turno ancora più marcata. Le chiedo, perché molti pongono questo problema, il ballottaggio ha senso, ha ancora senso o certo si potrebbe... Ha senso. Francamente, questo sono un po' persone che si svegliano la mattina con una nuova idea improvvisamente e per chi ha, come dire, un minimo di esperienza di quello che succede in Francia, dove appunto il ballottaggio è un sistema ormai rodato da decine di anni, si sa benissimo che dal primo e secondo turno c'è un calo della partecipazione elettorale che è ovviamente fisiologico. Poi sa, votando in questa maniera un po' divisa, cioè non facendo un turno elettorale in cui tutti i comuni e tutte le province vanno al voto in tutta Italia, ma se ne vota un po' adesso, un po' tra un po', eccetera, sì, è chiaro che questo, come dire, non facilita una partecipazione massiccia. L'anno prossimo si vota ancora, alcuni comuni, cioè, ancora, regioni. Siamo la Repubblica del voto, poi un po' di disaffezione è inevitabile che avanzi in ogni caso. Io, professore, la ringrazio per essere stato con noi, professor Piero Ignazzi, insegna scienze politiche a Bologna, e con lui chiudiamo, ma insomma continua anche con Giuliano Ferrara dopo le 9, dopo il GR, l'analisi del dopo voto, del referendum, delle amministrative, dei ballottaggi. Allora non mi resta che ringraziare Laura Marchesi, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Potete scriverci alla mail 24mattino@radio24.it e ci troviamo domani.